Non guardarmi più così. Non giudicarmi mai. Lascio stare le tue labbra se gli occhi guardano a domani. Qui non c'è nessun domani, ma soltanto le nostre mani. Ora mordimi, stringi più forte che puoi. Sete o sete delle tue parole lente ma violente, non ti spaventare, al tempo di noi non importa niente. Tu ricordami così, ricordami se puoi, fino a che ne avrò bisogno, anche se poi sorriderai delle mie virtù per soddisfare l'umanità ignorante di io, stretto e chiuso in me, coi pensieri arrugginiti come rottami. Posarsi e grida rimango. Ora il niente vorrà un domani. Crescerà ingannevolmente. Macchierà la mia voce quando ti dirò sono felice. In un momento felice. Responsabilmente felice.